America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. At approximately 9:30 a.m., Afghan and coalition forces once again defeated an attempt by the insurgents to push back the progress of the Afghan people and their security forces and the government. And the progress that they're making in Afghanistan. John Allen, si aggiunge un nuovo personaggio al cast dello scandalo David Petraeus. John Allen, il comandante delle truppe americane in Afghanistan. Ebbene, il colpo di scena che va a infittire ulteriormente questo misterioso caso, un po' di sesso, un po' di documenti riservati, di inchieste dell'FBI sulla CIA, di straordinaria turbolenza, devo dire, sulle forze armate americane e sull'amministrazione in genere. Insomma, abbiamo appreso ieri che John Allen era anche lui coinvolto, non possiamo chiamarlo triangolo perché ormai sono quattro persone, diciamo nel quadrilatero che coinvolgeva David Petraeus, Jill Kelly, la donna che da Tampa fece scattare l'inchiesta dell'FBI, e Paula Broadwell, l'amante di David Petraeus, del capo della CIA, dell'ex capo delle forze americane in Iran, in Afghanistan, uno dei grandi eroi militari americani del nostro tempo. Ebbene, cosa ha fatto John Allen? Abbiamo appreso che ha avuto delle corrispondenze intense con Jill Kelly per due anni, dal 2010 al 2012, si conoscevano molto bene e la cosa strabiliante è che hanno avuto una corrispondenza tra le 20 e le 30.000 pagine di email. Ora, per arrivare a dei volumi di questo genere, devo dire, soprattutto su corrispondenze private, erano amici, come stai, come vanno le cose in Afghanistan, beh, insomma, hai voglia a scrivere decine e decine di migliaia di pagine. Dunque, quello che abbiamo appreso, quello che si sospetta, perché per ora sono indiscrezioni, è che la signora Jill Kelly abbia ricevuto dal generale John Allen dei documenti, ma riservati, non riservati, questo non lo sappiamo. La Jill Kelly si occupava di aiutare i reduci di guerra, le famiglie dei soldati schierati al fronte. Potevano essere dei documenti innocenti con delle liste di combattenti, cosa avevano fatto, cosa non avevano fatto. Ecco, però è chiaro che c'è un nuovo problema, una nuova questione, al punto che John Allen è stato sospeso dal suo futuro incarico. John Allen doveva lasciare a giorni la guida delle forze in Afghanistan per diventare, pensate, il capo, il generale responsabile delle forze americane in Europa e il comandante supremo delle forze alleate della NATO. Era a Washington in questi giorni proprio per ricevere la conferma in audizioni al Senato. La sua nomina, vi dicevo, è stata sospesa. Lo scandalo dunque si allarga a macchia d'olio. A questo punto, in questo alone di mistero bisogna cercare di fare delle ipotesi per capire che cosa è successo. O come ai microfoni di America 24, Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore qui dagli Stati Uniti. Marco, buongiorno. Buongiorno. Allora Marco, una storia che non finisce mai, un tormentone che ci ha acchiappato subito dopo le elezioni americane, quando pensavamo di tirare il fiato, e invece eccoci qua. Qual è la tua impressione? Davvero una storia stupefacente per molti versi, e che di giorno in giorno vede i dettagli e le sfaccettature e le piste moltiplicarsi. Intanto, la Jill Kelly, secondo te, era anche lei un amante di John Allen? Perché questo non lo sappiamo, dobbiamo sospettarlo. Il New York Times dice che c'era una mano sotto il tavolo. Qual è la tua idea? Sì, difficile farsi delle idee precise, ma sicuramente il sospetto c'è. Sicuramente diciamo, la relazione tra Jill Kelly e il generale Allen era di quelle che insospettivano, che hanno insospettito l'FBI, la cui inchiesta, ricordiamo, era partita su email minacciose alla Jill Kelly, ma si era poi orientata su David Petraeus, sui rapporti con David Petraeus, e improvvisamente invece ha rinvenuto nel computer della Kelly anche tutto questo enorme scambio di email con Allen. Ecco, sospetti certo per l'FBI, ma i sospetti per prima sembra che li abbia avuti la Broadwell, la quale a un certo punto ha capito che questa Kelly, che vedeva forse come una potenziale concorrente, diciamo non soltanto per le attenzioni d'affetto del generale Petraeus, ma forse perché aveva capito che questa signora poteva avere un accesso privilegiato a delle fonti. E la Broadwell era anche lei ossessionata dall'avere informazioni, notizie, dettagli non noti al pubblico per poter poi usarli o nei suoi articoli o nei suoi interventi. Ecco, credi che questa possa essere una spiegazione, una pista? Sì, è sicuramente una pista credibile, ed è sicuramente la pista più accreditata, quella della rivalità tra queste due donne, una rivalità che non fosse appunto unicamente a livello di attenzioni così sentimentali, se così vogliamo chiamarle, ma anche a livello di ambizioni, di ruolo. Sicuramente entrambe vantavano, rivendicavano accesso a personaggi, come ricordavi tu, di primissimo piano, i due generali forse più decorati, forse più autorevoli nell'apparato oggi militare americano. Di questo accesso avevano beneficiato la Broadwell, appunto, pubblicando questa agiografia di Petraeus che forse avrebbe già dovuto sollevare qualche sospetto per i toni che aveva avuto. Quindi questa rivalità è sicuramente la pista più credibile, una rivalità a 360 gradi. Ecco Marco, però c'è un problema per le forze armate, perché improvvisamente le forze armate americane si trovano con due esempi che non sono certo edificanti, perché uno può dire: ma come, se un generale che è il capo in testa si concede certe libertà, perché non deve concedersele un soldato? Ecco, che lezione morale c'è per le truppe americane in questo momento? Sì, questo è sicuramente il nodo politico ed etico più difficile da sciogliere per i vertici delle forze armate americane e per l'amministrazione Obama stessa. La crisi etica, la crisi morale, la crisi di fiducia in un'istituzione che oggi comunque resta tra le più rispettate, forse la più rispettata negli Stati Uniti, e anche che è stata impegnata in difficilissime missioni, in difficilissime guerre, dall'Iraq all'Afghanistan, ed è tuttora impegnata. Ecco, questo scandalo in questo momento è sicuramente molto delicato e molto difficile, quindi per l'amministrazione, per i vertici forze armate sarà molto importante riuscire a rispondere con nomine all'altezza per i successori di questi generali caduti, se così vogliamo dire, e per poter rilanciare appunto rilanciare l'immagine delle forze armate e della politica estera americana. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Comincia oggi il tour americano dei Ra-Ra Riot. La banda indie rock di Syracuse ha lanciato nei giorni scorsi un nuovo single, titolo Beta Love, che fa parte di un album omonimo, il terzo della band. Uscita prevista 22 gennaio, in anticipo su America 24, Ra-Ra Riot, Beta Love. Golden light, don't know why, if I run to you, would you stay? I might be a prototype, but we're both real inside. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!